Allora, questa è la lezione del 12 di maggio. Allora, oggi parliamo di femminismo. Perché parliamo di femminismo? Perché sui testi importanti sul Cyborg ce n'è uno scritto da una femminista, da una signora che si chiama Donna Haraway. Questo è un libro preziosissimo, perché non è più un libro da vari anni. E per quanto io mi sforzi di farlo fare, Martinelli, Manifesto Cyborg. Allora, questo, la signora che si chiama Donna J. Haraway. Dove si scrive qua? Che se no va, c'è la mano. Donna J. Haraway, così si scrive. H. Haraway. Donna J. Donna si dice che è un nome femminile, nei paesi anglosassoni, non è donna. Qui deriva la domina latino, da cui deriva anche il donna italiano. Donna Haraway. Allora, Donna Haraway scrisse il Manifesto Cyborg nel 1980, lo pubblicò nel 1985, è un saggio non tanto lungo, quindi in questo libro ci sono altre cose. La traduzione poi del testo è Un Manifesto per Cyborg. Il titolo originale è Cyborg Un Manifesto, è circa metà del libro, poco più di metà. È un lungo saggio pubblicato su una rivista politica inglese, ma lei è americana, che fu la New Left Review, una più che è rivista una volta in Italia, una rivista che negli anni, dunque, 1985, casualmente 1985 fu lo stesso anno in cui uscì per la prima volta il mio libro Il Cyborg. Ovviamente io quando pubblicai Il Cyborg, nello stato 84-85, non avevo la minima idea che fosse una signora, ma non era solo Mario, ma poi qualche anno dopo scoprì di una reale, cioè di mai letto il Manifesto Cyborg, mi disse una femminista, quella che poi lo ha, e allora all'inizio lo lessi prima in inglese e poi finalmente lo lessi anche in italiano, il libro è uscito nel 95 dalla... Perché è uscito nel 95? Perché nel frattempo la Haraway aveva prestato il Cyborg Manifesto che venne pubblicato nell'85, però la Haraway scriveva altre cose, eccetera. Nel 91, 1991, la Haraway pubblicò un libro che si chiama, perché non c'è l'originale qua, lo dico io a mente, che si chiama Cyborg, si chiama Simias, Women and Cyborgs. Scimmie, diciamo, simias versus monkey. Simias è, come dire, scimmie antropomorfe. Simias, women, donne, e cyborg. E mette in linea insieme diversi saggi, tra cui questo e altri saggi. E il secondo saggio di questo libro, che è molto importante, che si chiama I saperi situati, situated knowledge, è una nozione di cui parleremo adesso. La questione della scienza, del femminismo e il privilegio di una prospettiva parziale. Questo è un testo particolarmente importante perché affronta il tema del cyborg da un punto di vista simile a quello da cui l'ho affrontato io l'ultima volta nell'ultima lezione, e che non è esattamente il modo in cui l'ho affrontato nel libro quando ho scritto Il Cyborg. Quel libro lì è un libro complicato perché consta di varie cose che ho scritto successivamente, quindi la prima metà è uscita nell'85, poi ho fatto una seconda versione nel 2001, poi ho fatto e siccome c'è ragione Rorty e non Habermas e le soggettività sono in divenire, anche la mia soggettività è in divenire, quindi ci sono un sacco di cose che nell'85 non avevo capito o che non sapevo, a cui non avevo pensato, su cui non avevo riflettuto, eccetera, e che nel 95 ho capito un po' meglio, nel 2001 meglio ancora, due anni fa meglio ancora, insomma. E questo rende complicato ovviamente seguire le mie lezioni, perché non c'è mai niente di stabile, o meglio, voi supponete sempre che ci sia qualcosa di stabile, ma qualcosa di stabile non c'è poi, diciamo davvero, perché io ho questo vizio di cercare di mettervi in contatto con il mio divenire, non col mio essere. Certo che c'è anche, ogni tanto quando scrivo un libro è ovvio che uno sistema quando faccio, però insomma. Allora, che cosa vi ho detto l'altra volta, che cosa ho cercato di suggerirvi? Ed è una cosa che quello che ho cercato di suggerirvi l'altra volta deve molto a quel libro, a questo libro di Haraway, con cui sono venuto in contatto diversi anni dopo, grazie a Liana Borghi, che è quella che l'ha tradotto in italiano e che mi ha passato l'informazione, perché sapeva che mi interessavo di queste cose e aveva già letto il librettino che avevo fatto nell'85. L'ultima volta ho cercato di spiegarvi che in qualche maniera la figura del robot, cioè l'idea di replicare un essere umano tale e quale, o alcune funzioni di un essere umano tale e quale, in un organismo o in un dispositivo diverso, esterno, dall'uomo, è qualcosa che presuppone, se non un punto di vista preciso, un atteggiamento essenzialista. Un atteggiamento che dica, beh, c'è qualche cosa di ben chiaramente descrivibile, perlomeno da alcuni punti di vista, nell'essere umano, lo pigliamo, lo rifacciamo tale quale da un'altra parte. Io vi ho detto diversamente, no? Forse non proprio contro, ma insomma diversamente da questo modo di pensare, diciamo, essenzialista, i biologi dicono fissista, le specie come entità fisse, no? Fissismo, essenzialismo. Diversamente da un modo di pensare fissista o essenzialista, che porta automaticamente o quasi automaticamente di più verso la figura del robot, la figura del cyborg è più adatta, si accorda di più con un punto di vista del divenire, con un punto di vista del processo. Se io non concepisco né l'uomo né nessun'altra specie animale né nessun'altra configurazione biologica o virgolette naturale come fissata, ma se la concepisco come qualche cosa che diviene, come un processo, è più virgolette naturale, o è più si accorda di più con questo modo di pensare, l'idea che ci possa essere una combinazione anche più audace di quanto non si sia provato a fare sino ad ora di processi biologici all'interno dell'uomo e di processi chimici, meccanici, elettromeccanici, genetici, di qualunque tipo, ma determinati da una logica in prima battuta non direttamente biologica. Dica. Grazie mille. Che gentile. Non sono tutte perché la macchina quindi saranno 26, penso. Ma c'è tutto il corpo. Sì, va benissimo. Grazie mille, Tina. Prego. No, si possono. No, mi hai detto sono meno di 26, quindi. Se mai li facciamo la prossima volta. Grazie mille. Cocaina, hai detto? Ah, ok. Sei andato a rialzo. Allora, questo punto di vista io l'ho trovato per la prima volta, cioè probabilmente era implicito in alcune cose che io già pensavo anche negli anni 80, ma non ce l'avevo chiare fino a che non lessi il testo della Haraway. Nel testo di Haraway questa idea che il cyborg sia un processo, cioè sia un modo, lei in quello che scrive, lei ha insomma, diciamo, un linguaggio particolare, quindi una delle bestie nere di quel saggio è la purezza e il mito dell'origine e la fedeltà all'origine e in genere la fedeltà. A un certo punto lei dice, non mi ricordo se trovo il passo preciso, se no mi potrà citarlo a memoria, mette insieme esattamente questi aggettivi. Ah, il libro contiene una bella introduzione di Ron Guidotti, che è un'altra femminista importante nel dibattito contemporaneo. Allora, no, è proprio diciamo, l'inizio. Il saggio comincia così. Dice, in questo saggio mi propongo di costruire un ironico mito politico. Un mito politico ironico. Fedele al femminismo, al socialismo e al materialismo. Tenete conto che la cosa è, questo saggio compare sulla New Left Review, che era una rivista socialismo, qua non si intende all'italiana, nel senso socialismo di cazzi, del socialismo come grande, che comprende anche il comunismo, dentro di cazzi. Quindi in questo saggio mi propongo di costruire un ironico mito politico, fedele al femminismo, al socialismo e al materialismo, e forse più fedele ancora, come l'empietà e non come la venerazione o l'identificazione. Quindi nel momento stesso in cui lei dichiara la fedeltà a qualche cosa, implicitamente dice di essere infedele, perché dice vuole una fedeltà più fedele ancora, dice, come l'impietà e non come la venerazione o l'identificazione. Quindi lei in realtà dice che non venera nessuna delle tre cose che ha detto prima, né il femminismo, né il socialismo né il materialismo, ma che vorrebbe essere empia, non via, cioè vorrebbe sfuggire da questa parte, da questa tradizione, e però evidentemente suppone che dentro a questa triplice tradizione, che lei dice femminismo, socialismo, dentro ci siano dentro le radici per sfuggire alla venerazione e alla identificazione, ma che questi tre campi, questi tre atteggiamenti portino già con sé una, perlomeno, tendenziale tendenza alla critica, al superamento, alla messa in discussione. E paradossalmente la messa in discussione di queste cose, da un certo punto di vista, si concluderà con un loro rafforzamento, forse, o con una loro... Vabbè, adesso non trovo l'altro, perché c'era l'altro sull'origine, ma forse quello più verso il fondo. Vabbè, no, però siccome compare il termine in realtà, allora leggiamo l'ultima frase. L'ultima frase dopo 50 pagine, poi il libro si può dire. Questo è il fatto, non è che tanto va. Questa è l'introduzione della Redotti, questo è il fatto. Il saggio finisce così. Le immagini cyborg possono indicarci una via di uscita dal labirinto di dualismi attraverso i quali abbiamo spiegato noi stessi i nostri corpi e i nostri strumenti. Questo è il sogno non di un linguaggio comune, ma di una potente eteroglossia infedele. Eteroglossia, parlare altro, etero, altro, glossa. linguaggio nel senso di emissione vocale. Questo è il sogno non di un linguaggio comune, ma di una potente eteroglossia inferiore. È l'immaginazione di una femminista invasata che riesce a incutere paura nei circuiti dei super salvatori della nuova destra. Gli anni in cui scrive questo stagione di Berto sono i primi anni del grande nuovo triunfo mondiale del neoliberismo di Reagan e gli Stati Uniti e di Margaret Thatcher, di Berto, quelli che cambiano, quelli che finalmente mettono a nudo nuovi modi di funzionamento dell'economia cosiddetta post-socialista e che cercano di distruggere tutta la tradizione precedente di mediazione tra i lavoratori e diciamo, capitalisti che aveva portato nel secolo come precedente a costituirsi lo Stato sociale, quindi ovvio per la questione di questa nuova destra. Quindi è l'immaginazione di una femminista invasata che riesce a incutere paura nei circuiti dei super salvatori della nuova destra. Significa costruire e distruggere allo stesso tempo macchine, identità, categorie, relazioni, storie spaziali. Costruire e insieme distruggere l'ordine di ciò che è l'agricoltura è macchine, quindi dispositivi artificiali di produzione e non produzione che attraverso la società, identità, senso, il nostro senso di ciò che siamo, l'immagine che abbiamo di noi stessi, quella che proiettiamo fuori, categorie, le caselle dentro le quali definiamo i fatti del mondo, più o meno, diciamo questo, quello l'altro. Relazioni, le vie di transito tra le differenti soggettività, tra la nostra soggettività e quella di noi. Storie spaziali, non è nominato il tempo, non a caso, credo. Significa costruire e distruggere allo stesso tempo macchine, identità, categorie, relazioni, storie spaziali. Anche se entrambe sono intrecciate nella danza a spirale, preferisco essere cyborg che idea. L'ultima frase, come è giusto che sia, è una dichiarazione in prima persona di Don Haraway, e dice so che l'immagine, che cosa ha detto prima? Le immagini cyborg possono indicarci una via di uscita dal labirinto di diciamo, dualismo. Adesso prende due immagini, quella del cyborg e quella della dea. Ci dice che queste due immagini sono intrecciate in una cosa che richiama una danza a spirale. Ci so che queste due immagini sono intrecciate in questa danza a spirale che in qualche modo è la processualità del nostro essere nel mondo. Però, dice lei, preferisco essere cyborg che idea. Preferisco essere cyborg che idea. Questa è una cosa che le donne, a contemporanea, ci hanno detto spesso, hanno detto spesso a noi maschi, fino agli anni 70, quando si è sviluppato il nuovo femminismo internazionale che scoppiò in quegli anni prima negli Stati Uniti e poi subito dopo, quando contemporaneamente in Europa, una delle cose che queste donne ci hanno più spesso rimproverato era il fatto che noi maschi tendessimo a ipostatizzarle, a vederle come delle dee. Il vedere una donna come una dea, giustamente da un sacco di punti di vista, le femministe lo leggevano come un processo di imbrigliamento, come un processo di neutralizzazione, vedendole come esseri, la cosa ha una storia lunga nella cultura occidentale. Philippe Ariès ha scritto un libro sulla nascita del concetto di amore, sulla nascita dell'amore. L'amore nel senso moderno è qualcosa che nel mondo classico non c'era o era molto diverso. L'amore nasce alla fine del Medioevo, all'inizio, cioè l'amore nel senso moderno, nasce con la poesia trovadorica, con la poesia dei trovatori, da cui poi in Italia si sviluppa prima il Dolce, il Novo, poi Dante, eccetera, eccetera, ed è una poesia che basata sul rapporto tra due figure che poi il romanticismo avrà dopo vari secoli, come dire, insomma, ipostatizza, amplifica, eccetera, ma che c'erano già nella poesia europea del XII, XIII, XIV secolo. Queste due figure sono il poeta maschio, colui che è capace di intrecciare e inghirlandare le parole e di fare del linguaggio una macchina di sogno e di espressione, di deprivato, socialmente emarginato, senza soldi, senza potere, un poveretto, uno da un lato, e dall'altro una figura di donna lontana, inaccessibile, perfetta, bellissima, di cui questo poeta canta le lodi senza neanche pretendere o tentare di procurarsi i favori fisici. Siccome Freud non era ancora arrivato nel XIII secolo, noi non gli esponenti, gli abitanti dell'Europa tardo medievale non potevano sapere che insistere troppo sulla negazione di una cosa significa in realtà affermarla, e che quindi questa insistenza sul carattere assolutamente ideale, idealizzato, platonico e no, di grande devozione verso questa figura femminile che era irraggiungibile, diciamola brutalmente, nascondeva in realtà delle fantasie di stupro, nascondeva questo, nascondeva in realtà il desiderio di questo maschio, disprezzato, emarginato, ma che padroneggiava meglio di ogni altra cosa lo strumento fondamentale dell'essere umano, e cioè il linguaggio, significava nient'altro che una metafora che quello che davvero si sarebbe meritato questa persona era. Richard Wagner negli ultimi decenni dell'Ottocento fu più esplicito e nella sua riscrittura del mito di Tristano e Isotta spiegò le cose come dovevano andare. Non c'è cazzo di spada in mezzo tra la bella dama e il poeta salvatore dipendente del nobile che deve solo scortare e traghettare a casa la signorina in questione per essere sposata dal re. Non c'è spada che possa arginare la potenza del desiderio, diciamo, sessuale. E Tristano si scoprirà Isotta pure attraverso la spada, non ci sono cristi, insomma, no? Come il trovatore, come il troubadour, come il poeta etereo e così cosa, voleva in realtà scoparsela la castellana. E se la scopava, come dire, mentalmente, insomma, cioè faceva questa cosa. Ora, credo giustamente, una delle prime cose che hanno, diciamo, rifiutato le donne che hanno preso coscienza di se stesse e del proprio ruolo subordinato e diciamo emarginato e sottomesso all'interno della società, una delle prime cose che hanno rifiutato intelligentemente, credo, è stata proprio questa, cioè la logica della sublimazione. Comincia con non dirmi più che sono tanto bella, che come sono brava, che come sono qui. Non diciamo cazzate, di le cose come stanno. Non usare questa sorta di distanziazione, eccetera. Mettiamo le robe, buttiamo più. Quindi, per questo Don Harvey scrive, preferisco essere cyber che idea. Cosa vuol dire preferisco essere cyber che idea? Preferisco stare dentro un processo in cui mi contamino, in cui cambio, in cui mi e anche tu con me, se vuoi, ma però siccome tu, come dire, maschio, sei abituato a giocare un altro ruolo, in qualche modo, insomma, questo saggio è il tentativo di fare diventare la figura del cyborg una figura di sovversione, di sovvertimento dei... di sovvertimento, sì, perché sono due cose un po' diverse, di sovversione in generale, ma anche di sovvertimento più pratico, più possiamo dubitare che questo sia davvero successo, cioè possiamo dubitare che davvero il cyborg sia diventata questa cosa. Però azzarderei che è attorno a figure di questo tipo, cioè è attorno a figure del divenire, e non dell'essere, non dell'essenzialità, che si è scatenata negli ultimi decenni del Novecento e sta continuando oggi la lotta e la battaglia culturale più forte, culturale, immaginaria e anche pratica. Perché diciamo, ovviamente le forze culturali del capitalismo si sono rivelate, si stanno dimostrando ovviamente meno ingenue delle forze tradizionali, insomma, e quindi sono in grado anche di vedere, di leggere o di proporre dei percorsi e delle letture come dire, consolatrici e stabilitatrici anche ai processi del divenire. Lo dico in altri termini, sperando di essere più chiaro, non è sufficiente, e se vi ho dato l'impressione che sia sufficiente, chiedo scusa e mi smentisco, non è sufficiente contrapporre il divenire all'essere, non è sufficiente contrapporre il processo alla cristallizzazione del prodotto. Perché il capitalismo contemporaneo è un capitalismo in grado di valorizzare e di gestire anche direttamente i processi linguistici, anche direttamente i sogni dell'immaginazione. Quindi dobbiamo essere, se vogliamo suggerire all'esecutivo all'interno di questo processo di valorizzazione, dobbiamo essere più intelligenti che non soltanto affermare la nostra fedeltà, ecco, la nostra fedeltà a qualcosa, per esempio al fatto di pensare per processi e non per processi. Non basta questo. Bisogna essere, anche noi dobbiamo sapere come essere infedeli alla nostra stessa storia, al nostro stesso modo di pensare, per certi versi anche ai nostri desideri, essere capaci di scegliere o di individuare tra i nostri desideri quelli che sono meno, ce ne saranno alcuni che sono meno valorizzabili di altri, ci saranno alcune figure linguistiche su cui sarà più facile operare lo scarto e fare in modo che queste figure linguistiche non entrino dentro il processo di... Però dobbiamo essere capaci di farlo. Allora, volevo fare però adesso qualche passo indietro, perché mi pare che specialmente per persone della vostra età, con la vostra storia, con le vostre esperienze, che non avete visto, forse di cosa, ma non avete assistito direttamente alla prima fase, cioè al nascere, al sorgere del periodo storico, ma ne avete soltanto visto degli effetti più o meno dopo anche almeno 20 anni, insomma, di storia. E, diciamo, per persone come voi potreste non capire fino in fondo la ragione, fino in fondo, la ragione per esempio per la quale io o uno come me ha è stato così, diciamo, colpito e si è così interessato ad una elaborazione della figura del cyborg che la vedeva collegata con il suo femminismo. E allora, semplicemente, penso che sia utile se vi dico qualche cosa di più, diciamo, generale, che inquadri storicamente quel fenomeno, ed è per una questione di curiosità, quel femminismo è ormai scomparso, insomma, non ha più la stessa, però ha prodotto degli effetti che sarebbe, secondo me, sono sbagliato, non lo vedevo. Ma soprattutto però quello che mi preme, insomma, dirvi, perlomeno quello che mi preme che voi comprendiate, poi ognuno ne farà l'uso che vuole, insomma. Quello che voglio dirvi è tentare di, diciamo, delineare il percorso e le ragioni di una marginalizzazione obiettiva dell'esperienza femminile, della figura femminile in tutte le civiltà che noi conosciamo, in tutte, non ce n'è una. Questa cosa è, come dire, ha bisogno di una spiegazione, perché tutto sommato a noi appare una cosa, virgolette, naturale. Ma in quella società, come nella società di arti, che qualsiasi, non conosciamo, non ce ne arriva di cosiddetta civiltà, in cui non ci sia in modo, ci sia stato in modi diversi, un processo di emarginazione, marginalizzazione, espropriazione del potere politico, culturale, eccetera, dei maschi, delle femmine da parte di maschi. In tutte, non ce n'è una. Allora, ci sembra una cosa, virgolette, come dire, diciamo, naturale, ma se ci pensiamo bene, questa cosa è paradossale. Come dire, paradossale e per qualunque mente razionale irritante. Perché irritante? Perché in ogni specie animale, sessuata, che sono tante, ce n'è moltissime che non sono sessuate, cioè se fossimo lombrichi non vorremmo questo, diciamo come saremmo più dermatologici, se fossimo anemoni di mare, ma siamo mammiferi, no? Siamo mammiferi, rettili, uccelli, tutte specie più o meno di attività sessuale. Ora, in ogni specie sessuata, la dico un po' brutale, ma è così, insomma, la parte depositaria del figlio, della trasmissione da una generazione all'altra del mercato biologico, è a tempo. In ogni specie non ci sono cisti. I maschi non se la prendano, i maschi, in modo particolare nei mammiferi, ma in tutte, sono espediti. Il maschio è una modificazione, diciamo, lo stato di fondo, la condizione di fondo spontanea del materiale biologico di ogni animale sessuato è la versione femminile. È la versione femminile che è la base della specie, di tutte le specie. I maschi hanno un cromosoma in più, modificato, hanno la Y, hanno una cosa diversa. Per una serie di motivi le specie sessuali hanno avuto un grande successo su questo, come dire, pianeta. Con una varietà poi di tecniche riproduttive enormi, perché c'è la diciamo, strategia, insomma, il modello cosiddetto R, che consiste nel fatto in cui non c'è un vero accoppiamento, c'è un dimorfismo, diciamo, sessuale, c'è una diversa funzione diciamo, sessuale, ma per esempio non c'è un accoppiamento come c'è, attenzione, in alcune specie degli insetti anche, ma per esempio negli anfibi non c'è, negli anfibi e nei pesci non c'è questo accoppiamento, cioè la femmina depone una quantità enorme di uova in un qualunque posto apposito, arriva il maschio e si sputata sopra il suo sperma. Ciao, ci vediamo la prossima volta, quindi non c'è nessun problema. Formiche e api invece, nelle formiche e negli api maschi e femmine si accoppiano. Questa funzione totalmente strumentale del maschio è chiarissima in alcune specie animali, non nei, come dire, mammiferi, soprattutto tra gli insetti. No? Fra gli insetti la, come dire, funzione strumentale e quindi socialmente subordinata del maschio è chiarissima, per esempio negli mammiferi sociali, no? Nelle api e nelle formiche. Dove c'è per una serie di storie, diciamo, lo sa come si sono evolute quelle specie, dove c'è un numero estremamente limitato, anzi una sola per ogni generazione, cioè una sola o due al massimo, formiche o api di sesso femminile, un piccolo numero un po' più ampio di maschi che devono competere tra loro e che evidentemente assicura che chi diciamo ci arriverà sarà, vuol dire, avrà del mercato genetico migliore di quelli che non, diciamo, ci arrivano, una sola scopata in tutta la vita di questi animali, una volta sola lo fanno ingravidano la, cioè perché quando va a formica lata o l'ate maschio raggiunge la femmina, dopo muore perché sovrante, no, prima però deve, ovviamente lo deve fare, le infila dentro una quantità di sperma incredibile, che questa si tiene e si amministra poco a poco per tutta la vita, e mano a mano che depone le uova, le fa passare prima in queste cose in cui il maschio è risultato, che si torna giù. Dopodiché i maschi vengono o lasciati morire, semplicemente come nelle formiche che sono più buone, sono state democratiche, quindi lasciano, oppure nelle api che sono naziste vengono seminati i maschi, dalle api sono due modelli diversi, ma insomma la stessa roba, poi di fatto che i maschi servono a questo. Ma chiuso, punto. La mantide religiosa, altro bel esempio, cosa fa la mantide religiosa? Sapete, se lo mangia. Prima scopa, poi ti hanno detto, conto ti voglio bene. Ma ce n'è una che ha mangiato il titolo alla testa. Ce n'è, di tutto. Allora, ragazzi, come è possibile che da una assoluta, ma come dire, banalmente biologica supremazia femminile in questi animali si passi negli esseri umani a una scandalosa espropriazione delle donne sul piano, diciamo, culturale. In realtà ci sono tendenze, cioè i mammiferi probabilmente, diciamo, l'uomo è, come dire, ad esempio, insomma, peggiore da questo punto di vista, però ci sono altre specie di mammiferi in cui in generale tra i mammiferi c'è una specie di equilibrio in quasi tutte le specie, insomma, no? In cui nei meccanismi culturali, perché ci sono meccanismi culturali non solo sugli esseri umani, sono anche, non è che diciamo, le mammiferi hanno la cultura del senso nostro, ma anche senza linguaggio ci possono essere, cioè, tutte le volte che c'è un insieme di comportamenti di un certo tipo, siamo di comportamenti in cui in qualche maniera ci sia perlomeno una componente simbolica forte, anche se comandata prevalentemente da strutture istintuali, possiamo parlare di precultura o di tendenziale cultura. Allora, nella gran parte dei tempi, probabilmente c'è in generale un equilibrio culturale tra maschi e femmine non troppo, diciamo, scandaloso. Ci sono alcune specie in cui però c'è una tendenza, specialmente tra i predatori, tra alcuni predatori, che è il prodromo di quello che succede non in tutti gli esseri umani, ma negli esseri umani da una certa parte in poi della nostra salute. Penso ai felini sociali, quindi specialmente ai leoni. Per esempio, nei leoni, non sempre, perché nelle tigri è un po' diverso, insomma, nei leoni c'è questa cosa per cui insomma tra i tre leoni chi lavora davvero per il cibo sono le tigri. I maschi non fanno quasi un cazzo. Capitano lì, come anche il film di Uomini da fare più o meno. Le cappelle le prende, le cacciano le femmine. Cacciano le femmine, andate una cosa, mettono lì, quando la femmina ha cacciato arriva il maschio, quello si fa un pochino da parte e il maschio mangia qualcosa che non ha contribuito, certamente il maschio serve per le questioni di emergenza, questo è ovvio, di quando c'è da fare lotte, quando c'è da assegnare il territorio, il maschio è molto attivo, quindi non è che l'occhio non serve un cazzo. Però, diciamo, si colpisce un po' il fatto e l'idea. Però lui diceva, insomma, in qualche modo sono. Ora, se voi andate a vedere Avatar, e mi rendo conto che non ve lo dico perché, siccome esco da 3 mesi di lavoro su questo film, su questa cosa, diciamo, Avatar è interessante perché in maniera ingenua e eccetera, eccetera, però ci mostra un modello di diciamo, relazione sociale, se ricordate com'è organizzata la vita dei navi dentro, in cui l'equilibrio che c'è tra maschile e contemporaneo di quella società è abbastanza plausibile, è quello che in effetti si è trovato in molte culture cosiddette primitive, in molte società orali. C'è una dimensione, come dire, politica, una funzione simbolica politica della comunità che è affidata al maschio nelle società umane. Quello da dei navi è cioè Cameron ha fatto il film ovviamente prendendo una serie di poi con le serie per mio padre, perché pure da dove ha preso un sacco di cose che non ha neanche dichiarato, forse perché non l'aveva neanche letto, ma vengono da fantascienza femminile e femminista degli anni 30. Quindi c'è una, comunque questa cosa è stata analizzata da diversi antropologi, quello che a me ha colpito di più è stato Pierre Clastres, che ha scritto un libro molto bello che si chiama La società senza Stato, non so se c'è ancora da vedere, in cui si raccontano molte di queste società cosiddette primitive, cioè società orali, società prima della civiltà, prima della scrittura e prima dell'agricoltura, quindi gruppi di cacciatori e raccoglitori, gente che vive ancora prima neanche, perché l'agricoltura è la prima grande rivoluzione. Allora, in queste c'è, diciamo, la componente simbolica, la componente politica della funzione rappresentativa simbolica che viene affidata al maschio. Conta ben poco, non conta quasi un cazzo. Esattamente come contava poco tra i nativi americani, tra in America. Adesso noi abbiamo questi grandi Geronimo, Toro Seduto, eccetera, in realtà queste tribù, i clan e le tribù dei cosiddetti, diciamo, pelli rossa dei comunisti americani, non avevano dei capi politici permanenti. Quando c'era una guerra si eleggeva o si nominava una figura chiaramente maschile che riassumeva dentro di sé questo tipo di caratteristiche. Questa è la prima componente. Poi c'è una componente di tipo magico-religioso, e qui la cosa è un po' più complicata, di cui in alcune culture, che in alcune culture erano anch'esse affidate, erano in genere maschili, nelle culture sciamaniche lo sciamano è prevalentemente un maschio, anche lui. Nel film di Cameron invece avete visto che il ruolo, diciamo, sciamanico è affidato a una donna, è la donna, è la, chiamiamola regina, insomma, è la donna in quella cultura lì che ha dentro di sé, che, diciamo, che assolve alle funzioni più delicate, molto più importanti, che non vi dà passate. Il maschio lì, quello che vorrebbe proprio come diavolo si chiama, insomma, il maschio Navi che ha incacciato perché è presente che prega la principessa, urla con un pazzo, ma è un imbarazzo, no? un conviviente, insomma, è un pasticcione, no? La vera figura chiave della comunità Navi è la madre, la che è una specie di, diciamo, sciamana, è quella che ha il rapporto diretto con la terra, con il pianeta, con l'ipotesi di là. Allora, questo ci porta alla, sono cose un po', sono difficili da, però tutta l'antropologia, diciamo, fra 800 e, diciamo, 900, ci ha convinto che l'equilibrio tra maschile e femminile nelle società pre-agricole è sostanziale, cioè non c'è una prevaricazione, una identificazione del potere economico, politico, culturale, eccetera, con i maschi nelle società. Questa identificazione nasce con la vita. Cioè nasce quando a poco nascono le civiltà, cioè quando, da un punto di vista della base materiale, quando nasce un sovrapprodotto sociale, cioè un'eccedenza della produzione rispetto alla quantità di consumo immediata della singola, diciamo, società, che richiede una gestione, componente materiale. Quando nasce uno strumento di comunicazione molto più sofisticato dell'oralità, pur, diciamo, dipendendo in qualche maniera dalla parola parlata, che è la scrittura, e quando l'insieme di queste due cose, creando, diciamo, l'apparizione di un soprattutto sociale e l'apparizione di un immaginario legato alla scrittura più che alla oralità, creano questo mostro che gli esseri umani sono formati, che dice, ma Stato. Lo Stato nasce per questo, mica nasce per altre cose, mica nasce come Israele, che è lo spirito assoluto, bisogna realizzare i grandi cose, nasce perché bisogna gestire dei mucchi così di grano e di orzo che non si mangiano tutti dentro quell'anno, e quindi bisogna evitare che qualche furbacchione arrivi e che li rubi se li lasciamo all'aperto, quindi bisogna chiuderli, bisogna prendere qualcuno con dei marciapicci così grossi che fracassi il cranio di quelli che cercano di rubarselo, e bisogna trovare una gestione delle parole che sia diversa dalla loro semplice pronuncia, dalla loro semplice espressione, che sia compatibile con la fissazione di queste parole su qualche supporto. Non nasce la cultura c'era anche prima, c'è sempre stata, l'uomo è un animale culturale, la cultura è la biologia dell'uomo, è la cultura. Quindi c'è una cultura orale, non c'è una cultura scritta, non c'è una cultura della scrittura, quindi nasce una cultura del sovrapprodotto e della scrittura. È a questo punto che nasce un, come dire, fenomeno che non possiamo dire che è tipico solo della diciamo, civiltà o della civiltà occidentale, perché lo, diciamo, troviamo in tutte le, diciamo, culture. Per una serie di motivi, quella che era una divisione del lavoro spontanea e naturale, che probabilmente c'era anche prima, c'era anche nelle piccole società, nei piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori, questa divisione del lavoro si trasforma in una divisione anche del lavoro culturale, anche dell'immaginario, e si trasforma in una supremazia. I maschi si rivelano, non si sa perché, penso che scoccate sapere perché, naturalmente, più interessati e più capaci di gestire esattamente tutte queste, tutte le situazioni nelle quali occorre un uso continuato e finalizzato della forza. La forza non è ovviamente assente, una dimensione violenta non è assente nelle società di cacciatori e poliziotti, quindi nella prima fase che però è la più lunga dello sviluppo storico degli esseri, degli ominidi e di Homo sapiens. Come c'è tra i mammiferi, come c'è, ci sono competizioni per il territorio e così via. Se però guardate al ruolo che ha la violenza tra le specie non umane, tra gli altri mammiferi, vi rendete conto che molto probabilmente la violenza è stata così anche per gli esseri umani nella prima fase. Gli animali, con alcune eccezioni, certamente, gli insetti sociali sono una cosa preoccupante, da quel punto di vista. Il nazismo è nato lì, molto. Le formiche sono le uniche, tra le pochissime specie animali che si ammazzano, si fanno guerra e si ammazzano tra loro. Non ci, praticamente, tranne poche eccezioni, tra cui le formiche, non ci sono animali che si ammazzano l'uno con l'altro, se non per caso. I conflitti anche violenti tra gli animali sono terribilmente, virgolette, culturali. Si urlano addosso, se ne fanno questi colori, fanno storie, abbattono, fanno cariche, eccetera. Ma ditemi voi quando è che si ammazzano? Due lupi non si ammazzano tra loro, due cervi non si ammazzano tra loro, due gorilla neppure, combattono tra loro per... fanno esibizioni, si daranno una zampata, uno verrà questo vista la più. Cioè è tutta una, come dire, certo che ci sono rapporti di forza, ma sono rapporti di forza già ritualizzati dentro un comportamento. C'è una esibizione della forza. Non c'è un portare a fondo, sino in fondo la. Certamente uno dice, questo funziona, cioè fino a che funziona? Funziona fino a che ciò che devo difendere è qualcosa di relativamente astratto, anche per un animale, cioè concreto per lui, certo, ma in qualche maniera potenziale. Il territorio, questo è il mio territorio, questa è la mia, più in là di qua non devi andare, questa è una zona incerta, in questa zona incerta avvengono i confronti. Quello che si spaventa prima se ne va. Questa è una cosa, e poi capita che qualcuno, cioè c'è la notte, quello c'è la raffreddore, c'è la maltesa, si sbaglia, dato la mazza, ma sono casi molto rari, diciamo di norma non c'è una consumazione della violenza nelle specie animali. E probabilmente non c'è una consumazione della violenza analoga neanche con gli esseri umani nella prima fase della loro storia culturale. C'è da quando la posta in gioco diventa meno astratta, meno potenziale di un territorio o di una zona di influenza, diventa concreta, diventa un mucchio di riso, diventa un silos che contiene del grano, diventa la capacità o la possibilità di sfruttare quel certo territorio recintato in cui ci semino e ci raccolgo io e non ci semini e non ti raccolgi tu. La recinzione delle terre, cioè il passaggio da una proprietà comune, indifferenziata, aperta, comune, neanche pubblica, comune proprio, dei beni a una gestione privata è tipica di tutte le grandi rivoluzioni tecniche, è tipica dell'agricoltura, è tipica della nascita dell'industria. Non a caso in Inghilterra, quando nasce, diciamo, l'industria, contemporaneamente vengono meno e vengono, nel giro di pochi decenni, scompaiono i grandi prati, i commons, le grandi distese pubbliche in cui chiunque portava a pastorare le sue bestie o le bestie di una piccola comunità, e in cui la mediazione sociale più o meno implicita, più o meno spontanea, risolveva eventuali conflitti. E a un certo punto si cingono, dicono, questa terra nasce la proprietà privata, no? Ed è questa logica che ha marginalizzato e ha, per esempio, fatto estinguere la gran parte delle culture dei nativi americani, non perché le abbiano direttamente sterminate, ma perché hanno introdotto all'interno del loro, di un modo di vivere sulle proprietà comuni, cioè sullo sfruttamento comune, un modello invece di, diciamo, recinzione di proprietà privata, eccetera, eccetera. Attaccati con questi fenomeni sono, c'è questo processo di, che bisogna dire, insomma, quindi di presa del potere da parte della componente biologicamente meno interessante degli esseri umani, che sono i maschi, oppure da parte di una componente tendenzialmente parassitaria, utile dal punto di vista, ripeto, della riproduzione, ma non così. Ora, né la nascita dell'agricoltura, tranne casi veramente molti, invece Saffo, Ipace, eccetera, però sono figure, insomma, come dire. La componente femminile del genere umano ha, come dire, accettato più o meno tranquillamente questa sua condizione di asservimento, di emarginazione e di esclusione da quello che contava, insomma, per una serie di motivi che probabilmente le femministe potrebbero dire meglio di me, insomma. Secondo me era dovuto in larga misura al fatto che alle donne gliene frega poco, insomma, obiettivamente, che stanno più attente, sono più, essendo più attente alla dimensione concreta delle, diciamo, relazioni, lasciano relativamente, o hanno comunque lasciato relativamente volentieri a noi maschi la gestione di questa cosa. Il risultato però è stato che obiettivamente la cultura della scrittura in quanto tale è nata sbilanciata. Nella cultura della scrittura è la componente maschile quella che è fondamentale. E quindi, per esempio, l'immagine della donna che ne esce è falsata, è il punto di vista di metà, del genere umano sull'altra metà, non è il risultato della... E tante volte, quando a un certo punto della storia, quando dopo la seconda rivoluzione, dopo la seconda rivoluzione tecnica, quella industriale, proprio per le condizioni create per questa specie di anche se finta o anche se poco autentica, insomma, democrazia, ci sono stati degli spazi in più che hanno creato all'interno delle masse femminili tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, i primi movimenti di rivendicazione, no? In una prima fase, tutte le volte che le donne hanno rivendicato gli stessi spazi che avevano gli uomini nella cultura, molto spesso sono state un po' ridicole. Perché? Perché anche loro, da un punto di vista, spontaneamente, era semplice capire che prendevano dei modelli maschili, quando una donna in pieno 800 voleva scrivere dei romanzi di successo come Francia, doveva vestirsi da uomo e darsi una forma maschile, e George Sand è questo l'esempio, insomma, no? Una parte della scultura maschile è sempre stata una parte, non tutta, ma una parte almeno, è sempre stata sensibile a questo, cioè si è chiesto, ma come mai, perché? E quindi anche lì, insomma, uno degli effetti di questa cosa, per esempio, fu questa assurda e diciamo impossibile teoria sul matriarcato di Bachofen. Bachofen era un pastore proprietario tedesco della metà dell'Ottocento, il quale scrisse un libro enorme di quasi 2000 pagine, una ricerca storica in gran parte sballata, insomma, in cui si sosteneva che c'era stata una, nella storia dell'autore romano, c'era stata una fase in cui non avevano comandato i maschi, ma avevano comandato le femmine. E appunto, chiamò matriarcato, no? C'è stato il matriarcato. Questa è una tesi storicamente insostenibile. Non c'è mai scritto, tutte le poche pseudo prove che porta Bachofen per questa cosa sono in realtà le fantasticherie maschili o le angosce maschili o le paure maschili che le donne prendano il potere, nello stesso modo in cui ce l'hanno i maschi, e che questa paura crea una serie di leggende, di miti che ci sono in varie culture, in tante culture, nella cultura occidentale era il mito dell'Amazzone. Il mito del popolo guerriero femminile, ma con tutte le cose e con tutti i pregiudizi e i luoghi comuni dei maschi sulle, diciamo, femmine. Cioè, sapete, l'Amazzoni, le cose che si dice dell'Amazzoni è che l'Amazzoni erano un popolo guerriero, un popolo che ci stanno nella Bibbia, nell'Odissea, la loro regina è Pentesilea, che ha una storia con Achille, con si diceva che queste diamanti si tagliassero la tetta destra perché così potevano tirare meglio con l'arco. Cioè, soltanto un cretino può pensare, però, pensateci bene, a parte che le donne hanno le più varie dimensioni di tette, ma anche se una ce l'avesse particolarmente prosperosa, non è che la tetta ti dà fastidio se devi tirare con l'altro, cioè è una puttanata, quindi sono chiaramente fantasie sui grandi maschili che anche a fin di bene, ma Hopper fa uguale, cioè prende tutte le leggi e ci costruisce sopra questa cosa, pensando che in qualche modo questa pseudo idea questa idea pseudo scientifica del matriarcato in qualche maniera risarcisse le donne. Beh, insomma, no, c'erano anche loro prima, poi sono anche maschi, sempre di un po' stronzo, ma l'idea dell'ipotesi del matriarcato di Bachofen proietta sulle donne esattamente una logica maschile, cioè pensa che le donne potrebbero prendere il potere, potrebbero contendere il potere ai maschi, ma nello stesso modo in cui lo fanno i maschi, non con una logica loro, ma quindi si inventa che c'è stato un tempo, c'è stato il matriarcato, perché non vuol dire un tubo, insomma. Allora, io credo che sia significativo e sia comprensibile che il primissimo femminismo, quello della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, è un femminismo, primitivo, cioè in cui effettivamente le donne seguono anche le donne femministe seguono questa regola, questa logica, cioè questo, come dire, modello culturale. Cioè, non fanno altro che rivendicare un posto dentro la società maschile, chiedendo l'uguaglianza dei, diciamo, diritti. Allora, a noi ci fa schifo, come è ovvio che è una, diciamo, stronzata, che dice, se ci si vota, no, però votano solo gli uomini, solo i maschi, ovvio che è. Però così era a Roma, così era ad Atene, insomma. E allora la prima cosa è, vogliamo di cosa votare. Quindi il primo, come dire, il primo, cioè, movimento di tipo femminista che si sviluppa negli anni intorno al 1890, e che comunque fa degli scontri terribili, perché la polizia, le carica, le picchia, le parti psicologiche, insomma, queste fanno le manifestazioni dicendo vogliamo il diritto di voto, e vengono picchiate come se arrestate, cioè, come se fossero dei pericolosi sovversivi, anarchici, operai, eccetera, eccetera. Queste foto di signore, queste cose, la cosa. Vabbè, allora, diritto di voto, ovviamente è ovvio che va bene il diritto di voto, è il movimento delle cosiddette suffragette, insomma il suffragio, vogliamo il suffragio per il voto universale. In tutta quella prima fase, fino per la prima metà del secolo, dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, il movimento femminista è un movimento di tipo emancipazionista, questo termine che tutti vogliono emanciparsi, che vuol dire emanciparsi è vecchio modo di dire latino, e manu capere vuol dire togliere la mano, era il padrone quando liberava il servo, quando liberava lo schiavo, o quando il figlio diventava maggiorenne, gli metteva la mano sulla testa e poi togliendola faceva vedere simbolicamente che non c'era più il potere del capofamiglia o del proprietario dello schiavo. Così le donne vogliono essere emancipate, vorrebbero che gli venisse tolta la mano sulla testa. È una fase di, diciamo, rivendicazione ancora poco, come dire, ancora diciamo tipica, cioè diciamo diciamo timida e ancora subalterna in qualche maniera rispetto alle logiche, diciamo, maschili. Detto in Tomasoloni, nella fase emancipazionista le donne chiedono di avere lo stesso posto all'interno di una società dei maschi, però non cambia, e quindi rimane diciamo maschile o maschilista, con una logica di sopraffazione. Diciamo, il punto di vista emancipazionista chiede, come sempre, a volte anche non con, erano anche radicali dal punto di vista dei modi di chiedere, insomma, non in questo modo cortese, però chiede una cosa che non cambia davvero le condizioni, cioè che non altera, che non ribalta i rapporti, che non chiede la fine di una mentalità o di una, diciamo, divisione del lavoro materiale e culturale, diciamo, diversa. Chiede per le donne una equa ripartizione del potere all'interno di una società maschilista. Ancora oggi alcune delle rivendicazioni che fa, non come femminista, ma per esempio le donne nella politica tradizionale, è di questo tipo. Cioè quando si chiedono le quote rosa, o quando si dice c'è poco, le donne hanno poco spazio nella politica, che scandalo che sono solo il 40% delle, o il 30% delle elette, mentre sono la metà della popolazione. Dicono cose vere, certo, ma si sta dentro una logica di questo tipo, di emancipazione. Vogliamo essere uguali a voi, ma dentro a una società di questo tipo. Tutto questo questa lunga pappardella mi è servita a me per spiegarvi quello che vi spiegherò dopo la pausa, e cioè perché invece da che punto di vista la figura del cyborg diventa una figura invece rivoluzionaria, dentro rivoluzionaria o che altera, diciamo, totalmente i rapporti di forza e soprattutto le logiche della società tradizionale per la UEFA. E quindi no, perché in qualche modo poi c'è di fare questa cosa. Allora, pausa e... erano le 4, diciamo le 4 e 5, questo, qua ci avete la dispensina. Sì, te lo do subito.